La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana. Benvenuti alla versione di Oscar da Oscar Giannino, 16:36, primi 32 secondi. Grazie a chi ci ascolta in podcast. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un tema che è stato toccato anche stamattina dal presidente del Consiglio Enrico Letta, partecipando a una conferenza organizzata dal Financial Times a Roma, che raccoglieva molta della parte alta del business management italiano, e riguarda una delle più grandi società italiane, la cui, diciamo così, malaparata negli anni, per via di cattiva privatizzazione all'inizio e poi adesso anche dell'insuccesso negli ultimi anni dei soci italiani che appartenevano, per così dire, a questi soci partoriti dalle concezioni di banche di sistema, ha in corso l'ennesimo passaggio di controllo. Stiamo parlando di Telecom Italia. Oggi ne parleremo con un non solo osservatore dall'esterno, ma anche con uno degli attori della vicenda. Ha appena scritto un suo libro. Che cosa ha detto, prima di presentarvelo oggi, il Presidente del Consiglio? Sapete che il governo si muove, per quello che riguarda Palazzo Chigi e Tesoro, con i piedi di piombo di fronte a chi ha invocato, per esempio al Senato, vastissima convergenza di maggioranza, interventi del governo nella vicenda di Telecom Italia, nelle more che si perfezioni l'accordo, che è ormai bello che perfezionato, tra i soci italiani in Telco, che controlla poco più del 22%, ma così controlla l'intera società, cioè banche e assicurazioni italiane, che come in Alitalia ritengono di avere terminato il loro ruolo, hanno firmato un patto che prevede nel tempo una ascesa dell'esercizio dell'indirizzo di gestione della società da parte di Telefonica, socia in Telco anche lei. Ci sono scoppiate un mucchio di polemiche sul fatto che siamo all'ennesimo passaggio di mano senza passare per il mercato del controllo di Telecom Italia. Al Senato, grazie a Massimo Mucchetti del Corriere della Sera, presidente della Commissione Industria, si sono registrate vastissime convergenze che chiedevano al governo interventi vari e diversi, interventi con un regolamento attuativo della ex Golden Share, che adesso si chiama Golden Power, che per le telecomunicazioni è ancora da perfezionare, di modifica del tetto che rende obbligatoria nella nostra legislazione l'OPA, in maniera che il premio al controllo venisse anche spalmato tra gli azionisti di minoranza. Attualmente la soglia del 30% nel testo unico della finanza. Si era pensato, la maggioranza del Senato è d'accordo nel modificarlo in maniera tale da applicarlo a tutti coloro che nel tempo, però, anche senza superare il 30%, designano la maggioranza degli amministratori. A questo tentativo il presidente di Telefonica ha appena risposto con un'intervista qualche giorno fa, in cui dice: ma noi non saliremo mai oltre il 15%. Come vedete, sono tanti i punti di vista. Oggi ne parliamo con l'autore di un libro che, oltre ad avere scritto il suo tagliente punto di vista su tutte le gestioni private di Telecom succedutesi alla privatizzazione, e il libro si intitola Goodbye Telecom, sottotitolo La banda della banda larga, il piano di Telefonica e il nuovo ordine mondiale. Quindi, come vedete, un libro molto critico rispetto all'ipotesi che sia Telefonica ad esercitare il controllo. L'autore, che si chiama Maurizio Matteo Decina, oltre che un osservatore è anche un attore. Perché? Perché è il vicepresidente dell'associazione degli azionisti di Telecom Italia, ASATI. Quindi stiamo parlando di un'associazione che raccoglie migliaia di piccoli azionisti, cioè quelli che non stanno in telco, quelli che non esercitano il controllo e che sono stati molto critici in tutti questi anni, a dire la verità in maniera crescente, su tutte le diverse gestioni. Allora, grazie per essere con noi a Maurizio Matteo Decina. Grazie Oscar, la ringrazio per questa possibilità, è sempre un onore. No, non è affatto un onore. Senta, io le chiedo innanzitutto una cosa, poi le chiedo giudizi vari e diversi. Stamattina il Presidente del Consiglio ha annunciato l'ennesima commissione, una commissione di tre saggi, dicendo che Caio la guiderà. A Caio avevano affidato un incarico che noi giornalisti umili avevamo capito essere di una messa a punto dell'agenda digitale. Invece il Presidente del Consiglio stamattina ha detto: no, faremo una commissione che ci dovrà fare una ricognizione degli investimenti necessari per la banda larga. E l'impressione dei colleghi che stavano ad ascoltare Letta era: il governo prende altro tempo per non intervenire nella vicenda Telecom. Le chiedo, ma secondo lei c'è bisogno di un'altra commissione? Ma no, il governo deve intervenire subito e non deve macchiarsi degli errori di tutti i governi precedenti, questo è sicuro. sicuro. Io non so cosa stia facendo Letta, non si capisce bene. Qui servirebbero non solo la legge sull'OPA alla Camera, ma anche cambiare lo statuto di Telecom. Cioè, allora, qui ci arriviamo, perché prima del libro, davvero vale la pena, l'editore Castelvecchi, ripeto titolo, Goodbye Telecom, l'autore Maurizio Matteo Decina, prima del libro in cui l'autore ripercorre le diverse gestioni dopo la privatizzazione, c'è un documento, e il documento è la posizione di Asati, per così dire, un documento mandato al governo a settembre, e le chiedo subito, chi legge queste tre pagine fitte rimane molto colpito, perché gli azionisti di minoranza, voi siete dei privati che hanno dei titoli in mano, elencando le vostre richieste si capisce che voi, non la prenda come una provocazione, perché io è ovvio che sono molto più scettico, però chiedete al governo, allo Stato, di fare tutta una serie di interventi, perché chiedete appunto la Golden Power, chiedete di modificare il tetto dell'OPA, chiedete di cambiare lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti per far entrare la Cassa Depositi e Prestiti. Siete dei nostalgici, per così dire, del vecchio periodo, oppure qual è la vera ragione di questa richiesta insistente Stato, Stato, Stato? Beh, sì, certamente sì, siamo dei nostalgici. Io le ricordo che io mi sono laureato nel 96 con la tesi sul piano Socrate, e nel 96 la Telecom era forse l'azienda di telecomunicazioni più vincente del mondo, aveva 120.000 dipendenti, poi a fine anni 90 è partita l'epopea internazionale, la Telecom è arrivata a possedere 25 partecipate estere in altrettanti paesi, investiva, c'era il piano Socrate che doveva, sotto Pascale e Gamberale, che doveva portare a fine anni 90 la cablatura di 20 milioni di abitazioni, oggi ancora non sappiamo con quali soldi realizzare questi investimenti, quindi è chiaro che la Telecom, cioè con il senno di poi è chiaro che siamo tutti professori, ma la Telecom pubblica era un'impresa che anche funzionale a quello al PIL del paese, cioè non si discute. Secondo me la privatizzazione di Telecom è stata un fallimento totale, quindi è chiaro guardare al passato e auspicare a un ritorno dello Stato. Perché io ecco, ma allora io qui, perché siccome questo il dibattito è ampio sulla sbagliata privatizzazione, ricordo tutti che fu dato il nocciolino agli Agnelli che avevano quattro azioni in mano, e poi ci sono state diverse gestioni, l'OPA di Colaninno, non OPA di Colaninno, poi la gestione di Tronchetti, e poi siamo a quest'ultima gestione, quindi sono quattro diversi passaggi. Ma al di là di questo, è ipotizzabile, secondo lei, al netto di Telecom, su cui torniamo dopo, che lo Stato italiano nelle condizioni attuali davvero modifichi lo statuto del CDP e rinazionalizzi di fatto in qualche modo, ma se si piglia la rete, perché di questo stiamo trattando, è una specie di rinazionalizzazione, fuori resta una società di servizi che va resa naturalmente più capace sul mercato, perché deve dare servizi a valore aggiunto, però di fatto sarebbe una rinazionalizzazione. Lei ci vede l'Italia nelle condizioni in cui stiamo in Europa con gli schiaffi eccetera eccetera, è realistico pensarlo? Allora, e la domanda sua è molto intelligente. La prima cosa, secondo me, prima di auspicare un ritorno dello Stato con la nazionalizzazione della rete, è quello di cambiare immediatamente lo statuto di Telecom Italia, che oggi prevede per i gruppi di maggioranza, quindi io posso anche essere un gruppo che ha il 5, il 10, il 15%, di avere 15 consiglieri su 15, in realtà sono 12 e gli altri 3 sono indipendenti, ma i consiglieri indipendenti non esistono. L'unico consigliere indipendente della storia del paese è stato Luigi Zingales, e oggi quindi, a parte l'inesistenza dei consiglieri indipendenti, il gruppo di controllo comanda con 15 consiglieri su 15. E cioè, questa è una richiesta di dare più spazio a chi ha in realtà in mano la maggioranza delle azioni, cioè il mercato. Contrastare la dittatura, esatto, se ci fosse una legge elettorale che dice il partito che vince le elezioni, anche che ha il 10, il 15 o il 20, poi alla fine mette tutti i ministri che vuole. Lei sta descrivendo il Porcellum, non so se se ne rende conto. Attualmente funziona esattamente così. Abbiamo un minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi torniamo con Maurizio Matteo Decina, l'autore di Goodbye Telecom, Castelvecchi Editore. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:46. Te, primi, stiamo parlando di Telecom con Maurizio Matteo Decina. prescindendo da quello che non sappiamo se davvero avverrà, perché non è ancora chiaro quali sono i tempi dell'ascesa al controllo di Telefonica, perché l'ultima intervista del presidente descrive uno scenario, per così dire, molto più morbido nel tempo di quanto non fosse sembrato a settembre, quando sono stati stretti gli accordi con le banche italiane e generali che stavano in telco. Parliamo di questa transizione verso un'ennesima gestione che a molti preoccupa, perché sono spagnoli, non sono nazionali, perché le quattro passaggi precedenti hanno certo non consegnato un'azienda che sta bene, ma che sta peggio, è molto indebitata, ha perso le partecipate estere, ha appena venduto la sua controllata in Argentina tra mille polemiche, molto in fretta, perché Marco Patuano ha dovuto creare immediate condizioni perché il titolo, che come sapete è già junk, non andasse ulteriormente giù. Vediamo una telefonata di un ascoltatore e poi torniamo con Decina. Stefano da Pordenone, prego Stefano. Buonasera, mi piaceva avere la vostra opinione su questa domanda. Ha senso parlare delle lamentele dei piccoli azionisti, con tutto rispetto, perché sono un piccolo azionista pure io, ma voglio dire, chi è chi compra un'azione si presume che sappia che cosa fa. A un certo punto, se il titolo va giù, se si mette una pietra sopra, si vende, perché sennò si sa che i piccoli azionisti fondamentalmente non hanno nessun tipo di potere decisionale o di indirizzo della compagnia. Ascolto per radio e vi ringrazio. Allora Stefano, io lo dico molto rapidamente. Noi siamo reduci da un lunghissimo periodo in cui in Italia, capisci, gli azionisti in minoranza, però qui stiamo parlando di un mercato che ha il 72% in mano del titolo, quindi non stiamo parlando di un flottante, per così dire, trascurabile, stiamo parlando di grandissimi fondi internazionali, e così via, e noi siamo reduci da lunghi decenni in cui in questo paese il controllo sulle grandi aziende si esercitava con patti di sindacato molto stretti. Stiamo lentamente, troppo lentamente, uscendo da questi meccanismi di governo, e il problema, adesso sbaglio io, ma secondo me Asati, oltre che azionista di minoranza, ha anche un'identità da sempre, cioè il suo presidente è un ex dirigente della SIP Lombardi, lo sappiamo tutti quelli che facciamo questo mestiere, né come ha ascoltato Decina si tira indietro nel dire no, guardate che quella pubblica, rivediamo un po' il falso mito che fosse sbagliata. Io non la penso così, io penso che lo Stato non possa riprendere le mani, ma questa resta la mia opinione. Torniamo a sentire invece Maurizio Mattea Decina. Lei dice la prima cosa, bisogna cambiare lo statuto per dare più voce agli azionisti di minoranza. La seconda? Allora, la seconda è sicuramente la legge sull'OPA, rivedere la soglia dell'OPA, perché è impossibile. Anche a partita in corso? Sì, beh, abbiamo visto con il convertendo, tra le misure salva Telecom, che poi non sono secondo me misure salva Telecom, ma è l'ennesimo atto di spolpamento dell'azienda, perché ecco, io quando le dico il ritorno dello Stato, il piano di Telefonica è molto semplice, è quello di vendere Telecom Argentina, poi fra due anni, tre anni si venderà Telecom in Brasil, perché ci saranno, anche se Telefonica non sale al 100% di telco, comunque l'antitrust brasiliana imporrà una misura del genere. Sarà dell'idea che in realtà non sono concorrenti, ma è lo stesso controllo. Quindi sì, però il piano di Telefonica, a Telefonica non gli interessa l'Italia o Telecom Italia, gli interessa il Sud America, quindi gli interessa vendere Telecom Argentina, vendere Team Brasil, fare lo spezzatino, e quindi avrebbero eliminato a un prezzo di favore Telecom Argentina e Team Brasil. Però qui la posso fermare e farle una domanda. Sì, com'è ipotizzabile che loro, che sono stati azionisti in questi anni in telco, per quanto abbiano gli interessi prioritari in Sud America, ovvio, ma perché dovrebbero essere interessati quasi niente, per così dire, allo sviluppo di un mercato che aspetta investimenti e può dare valore aggiunto se uno investe e cresce? Ma loro hanno 66 miliardi di debiti Telefonica, quindi come vede non portano capitali. Cioè, quando Bernabé diceva l'unica soluzione per salvare Telecom è un aumento di capitale, quindi non un bond al 6% che poi si può convertire in azioni con prezzo maggiorato, ma è un aumento di capitale o lo scorporo con l'entrata dello Stato, perché se Telecom, le regole di Telecom restano queste, si perderà presto il Brasile e il debito rimarrà grande, in quanto il fatturato del domestico sta scendendo, quindi il rapporto debito-fatturato rimane invariato o aumenta, e quindi fra 3 anni, 4 anni siamo allo stesso punto di prima, e quindi fra 3-4 anni l'unica soluzione per salvare le telecomunicazioni, quindi i servizi di telefonia, è un ritorno dello Stato. La fermo qua perché lei ha citato Bernabé. Nel libro mi ha colpito, ma mi ha colpito semplicemente seguendo da anni la società, so sì. Come l'ha pensata. Voi in realtà a Bernabé fate un tributo positivo, cioè sì. Bernabé per me resta, devo dire la verità, incomprensibile in due passaggi, sia quando ai tempi del passaggio con la Ninno tenta di piazzarla a Deutsche Telekom, e io non capisco molto in quel caso come un azionista possa mettere in piedi un'operazione simile, ma la mia perplessità, glielo chiedo perché mi insegni da azionista, anche adesso quando da mesi sapevamo cosa stava avvenendo, no? Da mesi sappiamo che quella è una società che ha bisogno di un aumento di capitale, come lei ha appena detto, e i soci italiani non lo volevano fare in telco, non è che non lo voleva fare solo Telefonica, le banche non volevano perché vogliono uscirsi. Allora, di fronte a questo, ha senso poi che il dottor Bernabé abbia fatto finta di apprendere dai giornali quello che avveniva e poi leva il cappello e se ne va e sparisce? Ecco, io questo non lo capisco, lei che interpretazione ne ha dato? Allora, sì, riguardo alla prima parte del discorso sull'OPA di Colaninno, il ricorso a Deutsche Telekom era la seconda parte del piano, il primo piano era fondere TIM con Telecom per incrementare il valore delle Telecom, poi solo fallito questo tentativo si è ricorsi a Deutsche Telekom, però sì, sicuramente poi di quel piano non si hanno notizie chiare, però la cosa che saltò nell'OPA non era l'accordo con Deutsche Telekom, ma era la fusione delle azioni di Telecom. Però voglio dire, lui lascia un'intervista, cioè per me è un po' singolare un manager che prescinde dai soci, avvenne all'epoca ed è avvenuto anche in quest'ultimo passaggio, perché lui a un certo punto dice no, io l'ho preso dai giornali, beh insomma noi che facciamo questo mestiere lo sapevamo e lui lo apprende dai giornali, però non fermiamoci su Bernabé, abbiamo magari opinioni diverse, lei che cosa si aspetta, voi cosa vi aspettate adesso? È chiaro che il Senato la pensa come voi, il governo mi pare di capire di no, e dunque? Dunque passeranno 2 anni, 3 anni, sarà una grande sconfitta per Letta, per tutta la sinistra, e fra 2 anni, 3 anni saremo nella stessa situazione di prima, senza l'Argentina, senza il Brasile, senza le torri radio, e interverrà lo Stato. Quindi lei dice, tanto vale farlo prima, quando c'è ancora di più e di meglio da difendere, di marginalità, di utili, di presenza in Brasile, piuttosto che dopo, perché sarà inevitabile, lei dice. Io credo di sì, cioè non vedo, in quanto il fatturato del domestico sta calando, anche per opera degli over the top come Google, Facebook, che stanno... E questa è una parte molto interessante del libro. A me dispiace avere poco tempo, perché avrei voluto avere veramente un'ora con lei, perché i miei ascoltatori sanno che non la penso così, però sono durissimo nel condannare l'atteggiamento di incapacità di gestione dei soci italiani di sistema, come i primi, come i secondi. La penso anche diversamente su Tronchetti, ma qua ci vorrebbero ore davvero per parlarne. Comprate Goodbye Telecom di Maurizio Matteo Decina, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.